Radio 24. Libera la voglia di fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Quando sono le 8:32 minuti di domenica mattina inizia una nuova puntata di Si può fare. Buongiorno a tutti da Alessio Maurizi. E buongiorno e buona domenica da Carlo Gabardini. Mi volgo Milano Monterosa, Carlo. Non piove, attendiamo un timido sole. Siamo un po' usciti da quel freddo glaciale che abbiamo sofferto. Speriamo Da un po' che siamo usciti, vedo le previsioni qua del meteo. C'è il sole ovunque, in tutta Italia, oggi domenica. Certo, se tu guardi il meteo, io guardo una finestra piccolina. In una via buia, a un orario troppo prestanzuolo, è molto difficile così. Cari ascoltatori, vi aspettiamo 800 24 00 24 in una giornata che si annuncia per una parte della politica italiana, ma forse per tutta, una giornata cruciale. C'è la direzione del PD. Ieri abbiamo chiesto agli ascoltatori di raccontare le loro litigate storiche, le divisioni decennali, che poi alla fine, magari, come è accaduto con l'ultimo ascoltatore che ci ha chiamato, che ci si riappacifica e ci si domanda: ma perché abbiamo cominciato a litigare? Chi è stato? Da dove è cominciato tutto questo? Dove va Bersani senza Renzi? Dove va Cuperlo senza Del Rio? Cioè, in fondo, affettuosamente volevamo dirgli questo: cioè, trovate il bando della matassa e non fate l'ennesima inutile scissione. Giustamente, chiedendosi dove va, l'unica parola giusta è direzione. 800 24 00 24, cerchiamo anche, come sempre ogni domenica mattina, un personaggio della settimana che può portarvi in premio questa settimana un bel libro, cari ascoltatori, quindi cominciate a pensare. Vi vado a dare subito questo indizio: gli ultimi 7 giorni, un personaggio, una notizia. L'indizio è che il personaggio è internazionale, e c'è qua l'indizio, quindi cercate, cominciate a pensare. 800 24 00 24. Assolutamente non ci sarà alcuna colata di cemento, anzi, francamente mi dispiace molto che, come al solito, alcuni giornali abbiano inventato verità che non esistono. Non c'è alcun accordo, stiamo ovviamente lavorando per capire se sia possibile trovare una via di mezzo, ma non c'è alcun accordo, insomma. Settimana campale anche da questo punto di vista sulla questione dello stadio, ma bisognerebbe forse parlare non tanto dello stadio quanto del progetto complessivo, in cui lo stadio è il 14% dell'edilizia, della cubatura del cemento. Quindi bisognerebbe parlare più dei grattacieli, dell'altro 86% che sono grattacieli, negozi, quello che giustamente dice è stato chiamato business park, che è bello, basta chiamarlo park, che poi dentro posso farci quello che voglio. Anche dei grattacieli di 14 piani, non so quanti piani siano, ma di grattacieli si tratta. Settimana nella quale c'è stato il divorzio definitivo con l'assessore Berdini, che dopo tutta la questione, l'intervista alla stampa in cui ha parlato male della sindaca Raggi, tutto quello che volete, assessore che si opponeva fermamente a questo progetto, adesso l'assessore non c'è più, vedremo. Questa mi sembra la parte fondamentale, è il fatto che Berdini fosse precisamente, pesantemente contrario a questo stadio. Forse invece all'interno la giunta ha capito che forse lo stadio lo voleva, anche perché forse per la città bisogna pur fare qualcosa, visto che tutti i romani si lamentano. A un certo punto, panet et circensem, si mette uno stadio e tutti contenti. Stiamo lavorando per trovare un sostituto, soprattutto una persona che parli di meno e lavori di più. Abbiamo moltissimi dossier aperti, quello sullo stadio è uno dei tanti, ma abbiamo i piani di zona, i toponimi, le affrancazioni, sono tante cose sulle quali bisogna lavorare in maniera costante e quotidiana. Roma, Roma, Roma. Beh, io mi emoziono anche un pochino perché sono romanista, pur non essendo romano, ma non c'entra. E questo è l'inno della Roma di Antonello Venditti, avete capito? Parliamo di questo, parliamo dello stadio, ne parliamo con chi, un fiero, se volete, no, a questo progetto, ma non dello stadio, al progetto, diciamo, complessivo, ha espresso un parere negativo. Presidente di Legambiente Lazio, Roberto Scacchi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. E allora, il dilemma è questo, a questo punto, costruirlo o non costruirlo, regalare, realizzare il sogno di metà romani, i romanisti, oppure opporsi a un progetto che sì, prevede lo stadio, ma all'interno, come abbiamo detto, prevede un cantiere che sarebbe, anche se non lo si vuole chiamare così, sarebbe una colata enorme di cemento a Roma. C'è bisogno di queste costruzioni a Roma? La domanda da farsi è questa, c'è bisogno di grattacieli, sì o no? E io faccio solo questa piccola premessa e dico che la giunta Raggi, di cui abbiamo sottolineato tante volte gli inciampi, gli assessori, i ricambi che ci sono stati, eccetera, eccetera, però ha il merito, ineliminabile, un merito importante, che è quello di avere aperto questa discussione, perché possiamo, io credo, dirlo, in altri tempi, con altre giunte, in altri tempi non sospetti, questo progetto sarebbe passato senza se e senza ma, salvo poi magari dopo dire ma come è stato costruito qua dove c'erano vincoli ambientali, grattacieli vuoti, eccetera, eccetera. Quindi merito alla giunta Raggi di aver aperto questa discussione, vedremo come andrà a finire, perché poi tocca entrare nel merito. Allora, aprire un conto, ma poi conta, esatto, come si chiudono. Allora, Scacchi, io le chiederei di farci un po' anche da guida in questa vicenda, di raccontare anche ai non romani, passo dopo passo, prima di arrivare al suo no, al no di Legambiente, anzi arriviamo all'opposizione di Legambiente a questo progetto spiegandolo passo dopo passo. Intanto le chiedo quanti metri, quanto è grande questo cantiere previsto, ed è vero che si parla del più grande cantiere d'Europa? Beh, diciamo che parliamo di una roba intorno ai 320.000 metri quadri di superficie per un milione e qualcosa di metri cubi di sviluppo, di cui lo stadio evidentemente è una porzione molto piccola rispetto al complesso. È vero che sicuramente è la più grande deroga della storia al piano regolatore di Roma, è il più grande cantiere europeo attualmente eventualmente in opera, è anche la più grande costruzione a bordo di un fiume in questi periodi, non sì. È perché uno può dire, uno può dire va bene, apriamo un cantiere per il famoso sviluppo, perché l'edilizia è stata sempre il motore dell'economia, eccetera eccetera. Ci sarebbe semmai da domandarsi se ancora oggi ha senso usare l'edilizia di nuova costruzione anziché di recupero come volano per l'economia. Questo vogliamo aprirlo, apriremo magari dopo questo aspetto, però già un punto bisogna dirlo, si parla di stadio, ma lei l'ha detto, la percentuale di cubatura che riguarda lo stadio è meno del 20%, quindi tutto il resto che cos'è? È speculazione sulla passione sportiva dei romani, che sono molto veraci quando si parla di calcio e difendono a spada tratta, purtroppo, spesso e volentieri, questo progetto, che però è tutt'altro che stadio, nel senso che si è speculato un cavallo di Troia allo stadio per fare il più grande centro direzionale, quindi uffici di Roma. Quando poi si sa bene che... Quindi Roma uffici grattacieli di che altezza, di quanti piani? Ma l'altezza non è ancora definita, però parliamo di 60 piani, qualcosa del genere, i più alti palazzi di Roma sicuramente. E questo viene definito business park, si usa la parola park, che è parco, però... Park, poi colorato anche abbastanza di verde, per come se il cemento, se fosse colorato di verde, sarebbe meno cemento. Cioè ci sono delle previsioni di colorare gli edifici di verde? No, ci sono delle previsioni di piantumare alberi, Che sono i cosiddetti oneri di urbanizzazione, sì, giusto? Sì. Per costruire i grattacieli devono promettere dei pezzi di verde. Sì, in questo senso sì, però il quadrante dove si va a costruire, per chi non è di Roma, è veramente sfortunato. Ci sono due strade che sono due imbuti, si chiamano la Via del Mare e l'Ostiense, due imbuti dove quotidianamente o per ore e ore le persone sono... fila nel traffico, sì. C'è la Roma Lido, che è la peggior tratta ferroviaria d'Italia, non solo la peggiore ma anche la più frequentata, d'Italia complessivamente 100.000 persone al giorno. Ma non è previsto un milione, non è, nel previsto. Caso che ci fosse lo stadio, non è previsto il fatto di rendere la Roma Lide o di potenziarla e la Via del Mare, lo Ostiense. Il potenziamento previsto è relativo al numero di treni viaggianti. I treni viaggianti se ne aggiungerebbero eventualmente 8, da quanto stiamo capendo secondo il progetto. Quegli 8 treni sono veramente insufficienti neanche per renderla normale così come è oggi. Certo. Perché attenzione, non è una questione di stadio e della domenica pomeriggio piuttosto che del mercoledì sera o di quando si dovrebbero fare gli eventi all'interno dello stadio. Il problema è che in una cubatura di 700-800.000 metri cubi di sviluppo, e quindi di uffici, se eventualmente sono attivati, quindi diventano veramente sì, chiaro, si crea un flusso quotidiano di gente che deve andare lì, quindi calcolando i 120 metri cubi a persona di cui dobbiamo avere a disposizione di circa 10.000 persone. È 10.000 persone. Senta, Scacchi, veniamo anche all'altro aspetto, no? Di chi sono i terreni su cui si andrebbe a costruire e quanto costerebbe questo progetto, chi ci metterebbe i soldi? Evidentemente sono privati, sono il costruttore in questione che sta facendo appunto l'accordo con la società Roma, che è il signor Parnasi, e in questo caso evidentemente i soldi e la spesa sarebbe quella dei privati, che andrebbero anche a realizzare delle opere contingenti all'esterno, quindi la spesa per l'acquisto di nuovi treni e quant'altro. Il problema è che sostanzialmente si parla impropriamente anche di stadio della Roma, quando poi diventerà semplicemente lo stadio del signor Pallotta o il signor Parnasi, che se un giorno vendessero peraltro per assurdo la società sportiva, gli attuali proprietari, la Roma si ritroverebbe a dover pagare l'affitto. Vabbè, questo è vero, capita anche magari in altre società di calcio dove ci sono società stadi di proprietà. Questo è comunque un altro aspetto che giustamente lei ha voluto mettere in evidenza. Senta, la domanda che io le faccio a questo punto è anche questa: visto che abbiamo detto oltre l'80% di cubatura è un business park, cioè una zona di uffici con grattacieli anche altissimi, Roma ha bisogno di queste costruzioni? C'è sete di uffici, o ci sono già, come risulta anche da altre inchieste che sono state fatte mille volte, edifici anche nuovi, vuoti altrove e inutilizzati? Ma il costruito e inutilizzato di Roma sono numeri impressionanti, francamente. Il centro storico di Roma è stato svuotato anni fa dalle funzionalità degli uffici, perché gli uffici sono spostati in periferia, gran parte sono andati a finire all'Eur, nella zona proprio in questione, vicino Tor di Valle. E gran parte però degli edifici costruiti nelle periferie sono rimasti invenduti. Parlo delle centralità che si sono sviluppate per esempio nella zona Roma Est, sul quartiere di Burtino, dove è pieno di capannoni abbandonati ormai perché non sono riusciti mai ad affittarli. Sono 15 anni che ci sono pronti dei capannoni nella zona di La Rustica, che doveva essere un centro direzionale, non è mai stato attivato niente lì dentro perché non c'è sede di uffici, evidentemente. Così come è andata a finire male la storia per esempio della Fiera di Roma. La Fiera di Roma, costruita ex novo una decina d'anni fa vicino all'aeroporto di Fiumicino, dove erano previste anche centralità ed uffici, è sostanzialmente fallita da più di qualche anno. Capite bene che di fronte con questi esempi il rischio che non solo che si riproduca questo tipo di errori, ma che non si vada a creare delle nuovi edifici, una nuova cubatura, nuova edilizia, che sostanzialmente è inutile perché si dovrebbe puntare a recuperare quello che c'è. Il rischio è non alto, secondo me, altissimo. E si capisce da quello che ha appena detto il presidente Legambiente Lazio. Facciamo una piccola pausa per il traffico. Le anticipo le prossime domande. Io le chiederò intanto di esplicitare perché il vostro no a questo progetto, anche se in parte lo ha già detto, la sua previsione come andrà a finire, perché nei programmi politici del Movimento 5 Stelle sicuramente un progetto del genere non è compatibile. Poi una domanda anche da parte di Carlo, le anticipiamo? Vai. No, facciamo dopo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E a Allora, cari ascoltatori, alle 8:46 minuti riprendiamo. Si può fare 800 24 00 24? Che cosa ne pensate di questo progetto, che è importante perché è un progetto di respiro nazionale, quindi non riguarda soltanto Roma, ma poi di progetti simili ce ne sono in tante altre città. Chiaramente in sedicesimi più piccoli, quindi se avete anche voi un piano edilizio, un progetto che vi sta a cuore per il sì o per il no, chiamateci 800 24 00 24. Non vogliamo essere romacentrici, ma non si può non parlare. Se avete un progetto per uno stadio sotto casa, esatto, stai dicendo, esatto, anche in un posto più piccolo, è il momento di proporlo. È il momento di proporlo. E poi cerchiamo un personaggio della settimana, un personaggio internazionale. 800 24 00 24. Siamo col presidente di Lega Ambiente Lazio, Roberto Scacchi. Senta, io le volevo chiedere, visto che giustamente stava dicendo che di costruzioni di uffici anche a Roma, come in tutte le città, se ne fanno tantissime e poi di solito restano delle cattedrali nel deserto perché non c'è l'esigenza e le persone non riescono ad affittarli, io mi chiedo come mai quindi dei privati hanno tutto questo interesse di costruire migliaia di metri cubi in uffici se sanno che poi non li affitteranno, perché quando è il pubblico si sa, uno dice prendiamo i soldi pubblici, li costruiamo, poi chi se ne frega se non li vendiamo. Ma se sono privati, perché vogliono fare questa cosa? E l'altra cosa che le volevo chiedere è comunque sia se questo progetto è ancora fermabile o meno. Allora, in quell'area, in quel quadrante ormai è abbastanza famoso, visti i miliardi di rendering che girano, sì. Semplicemente è previsto dal piano regolatore di Roma il verde privato attrezzato, vuol dire che non si può costruire e quindi quei terreni hanno un valore. Con questa deroga che fa sì che lì possano venire fuori gli edifici più alti di Roma e il più grande centro direzionale della capitale, riescono a vendere i terreni. No, quei terreni hanno un valore XXX volte, certo, superiore, certo, a quelli che hanno adesso, semplicemente. Ecco per quale motivo i privati spingono così tanto per realizzare uffici, anche perché evidentemente conti alla mano, sanno bene di cosa si tratta, trasformare un'area non edificabile, sondabile del Tevere, rimasta libera proprio perché esondabile, in un'area dove invece costruire la qualunque. No, ma questo è chiarissimo da parte dei proprietari dei terreni, ma da parte dei costruttori dei palazzi? Sono la stessa persona, purtroppo, a Roma. Nel senso che la proprietà e costruzione è affidata in questo caso allo stesso soggetto. Senta, invece l'altro aspetto, quello che diceva Carlo, questo progetto a che punto è dell'iter? C'è un parere della sovrintendenza? Dovrà vedere uno step. Aggiungo solo l'ultima notizia di ieri, praticamente la sovrintendenza di Roma pare che ci sia un vincolo su quell'area per quanto riguarda le altezze degli edifici che non devono superare, credo aver capito bene, l'altezza dell'ippodromo o delle curve dell'ippodromo, non so se ho capito bene, ma c'è comunque un vincolo della sovrintendenza. A che punto è l'iter di questo progetto? Allora, il progetto dovrà vedere uno step definitivo, quindi una deadline cioè davanti, che è quella della conferenza dei servizi in Regione Lazio. La Regione in questo caso è organo tecnico che dovrà verificare che le carte siano... Che è il 3 marzo questo. Che è questo 3 marzo. Abbiamo visto però che c'è appunto questa nuova informazione che è arrivata ieri dalla sovrintendenza, che probabilmente prolungherà in questo senso anche la tempistica della conferenza di servizi, anche perché francamente dopo 4 anni che si discute di stanza della Roma a 2 settimane da quella deadline, evidentemente si procrastina un pochino quantomeno quella data. C'è questa possibilità, la possibilità che il progetto non vada avanti in realtà è abbastanza alta. Per quale motivo? Perché il progetto deve rispettare una delibera di utilità pubblica fatta dal Comune di Roma, che se perde uno dei vincoli che si era dato il Comune di Roma a quel progetto, evidentemente decade, e decadendo la delibera non si può semplicemente fare. Quali sono i vincoli? Per esempio quello di fare una metropolitana o di servire quel progetto, gli uffici e lo stadio al 50% delle persone deve essere data la possibilità di andare con i mezzi pubblici. Ora, che quella ferrovia che c'è adesso possa portare altre 5.000 persone al giorno e 25.000 nei casi di partite è abbastanza curioso, così come sì, è curioso sì, che era apparsa nella storia in questi anni uno schiocco, un prolungamento della metropolitana B di Roma che arrivasse direttamente dentro lo stadio, come peraltro nelle grandi città e nei grandi sì, europei c'è, che poi è sparita per il semplice fatto che ATAC non se l'è sentita. La interrompo brevemente perché in realtà poi quando si entra in alcuni dettagli, aspetti che magari per i non romani sono più oscuri. Certo. Tra l'altro voglio dire agli ascoltatori, alcuni ci criticano, basta con Roma, non si parla d'altro, non ci frega nulla, dice un ascoltatore, esiste anche il resto d'Italia. Io puntualizzo solo una cosa, non è che ci accodiamo a un tema piuttosto che un altro. Questo tema del rischio di speculazione edilizia si può fare, ne abbiamo parlato milioni di volte, abbiamo parlato dei comuni che addirittura riconvertono i terreni edificabili in terreni agricoli perché è una notizia positiva, abbiamo parlato di tutte quelle iniziative di recupero edilizio perché di questo dobbiamo fare, l'edilizia deve essere questa, recupero, riqualificazione delle aree, non costruzioni se possibile ex novo che poi come ha detto giustamente Carlo rimangono cattedrali nel deserto, lo sappiamo benissimo, quindi di questo progetto non potevamo non parlare di domenica mattina questa settimana. Le faccio fare Scacchi una previsione su come potrebbe andare a finire, perché un progetto del genere sulla carta non è compatibile con i programmi del Movimento 5 Stelle, tant'è vero che il sindaco Virginia Raggi ha detto non c'è nessun accordo, non ci sarà nessuna colata di cemento. A quale piano B si sta lavorando secondo lei? Quale potrebbe essere la via d'uscita ad uno stadio che comunque mi sembra di capire la giunta è intenzionata ad autorizzare in qualche modo? Ma c'è l'ipotesi appunto dell'accordo al ribasso sui metri cubi, che però è abbastanza andata in sordina per il semplice fatto che l'accordo prevedeva comunque 1 milione di metri cubi, almeno quello che è trapelato dalla stampa. C'è la possibilità che questa riduzione sia molto più incisiva. Francamente da questo progetto se ne esce, da quanto sembra, o ricominciando l'iter, perché decade l'utilità pubblica il 3 marzo, la conferenza dei servizi non va da nessuna parte, si ricomincia l'iter e il Consiglio Comunale assume il ruolo che dovrebbe avere, quindi decide come questo progetto deve essere strutturato, oppure salta il business park e va avanti la conferenza dei servizi soltanto con lo stadio. Va bene, queste sono in qualche modo anche le previsioni o comunque dire le indicazioni che arrivano da voi. Legambiente, abbiamo detto, siete contrari, abbiamo voluto sentire il vostro punto di vista, ma magari ne sentiremo degli altri, possiamo sentire gli ascoltatori questa mattina all'800 24 00 24 che ne pensano. Grazie Scacchi, buona domenica. E questo era la notizia da cui siamo partiti. Ripeto, ce ne siamo occupati tante volte per altre vicende che riguardavano magari anche comuni piccoli, piccolissimi, quindi oggi parliamo di Roma. È la capitale d'Italia, non mi sembra un grande problema. Esatto. Mi sembra un problema gigante. È il più grande cantiere d'Europa, credo che ne parlino anche in Norvegia, adesso in radio. Allora, Marco da Milano, buongiorno. Sì, benvenuto. Buongiorno. Vai. Buongiorno. Sono perfettamente d'accordo con quello che ha detto il signore. Roma, lo stadio non è una priorità. C'è un degrado assurdo. C'è un degrado assurdo in tutta Roma, in sì. tutti i quartieri di Roma. C'è bisogno di altro. Fossilizzarsi su un non problema dello stadio è una cosa assurda. Si darebbe Marco, ma fosse lo stadio, fosse lo stadio, e parleremo di questo. Se in realtà stiamo parlando di un parco, di un quartiere residenziale con uffici, questo è il punto, no? Perché parlassimo dello stadio, uno potrebbe dire priorità o no. La priorità è un quartiere di uffici, di grattacieli. Questo mi sembra di capire sia ancora meno una priorità per una città come Roma. Non è una priorità, però lo si sta parlando come priorità. Se sta parlando perché è un progetto sul tavolo importante, quindi bisogna capire come andrà a finire. Grazie Marco. Comunque voglio sentire anche Giuseppina da Milano prima di chiudere. Vai Giuseppina. Eccomi, buongiorno a voi. Buongiorno. Su cosa volevi intervenire? Voglio vincere libero, ovviamente. Brava. E allora spara il nome. Allora, Roberto Baggio. Perché? Ha compiuto 50 anni ed è andato alla Matrice a festeggiarlo. Tra i terremotati. Certo, esatto. Notizia c'è assolutamente, personaggio internazionale, assolutamente un gigante. Ma non è il personaggio che avevamo scelto. Non è lui, Giuseppina, anche se è sicuramente un bel personaggio, molto si può fare della settimana anche per la scelta, andare a festeggiare i 50 anni in quel modo. Ma non era lui, è un altro il personaggio internazionale che andiamo cercando. 800 24 00 24. Ascolto Gianluca perché sei solo chiacchiere distintive. Perché non lo si può vedere. Perché è uno specchio deformante. Fa ridere ma fa anche riflettere. Ascolto Gianluca perché mutano le case, mutano le cose, mutano le mele da renetta deliziose. Muta questa vita, ma ancora in cosa non si sa. Melog. Ogni giorno a domande inedite ricevo risposte autentiche. Melog, Cronache Meridiane di Gianluca Nicoletti, dal lunedì al venerdì alle 12 su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Si può fare. Cronache da un paese migliore. 9-7 minuti, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi. Buongiorno da Carlo Gabardini. Ben ritrovati cari ascoltatori. Allora, intanto qualche messaggio in attesa di tornare al numero verde 800240024 anche per indovinare il personaggio della settimana, che è un personaggio internazionale. Ci scrive un'ascoltatrice, credo che non si firma, un ascoltatore che non si firma, scusate ma le ragioni del sì allo stadio non le fate sentire. Non lo so se faremo sentire le ragioni del sì allo stadio. Abbiamo però chiarito una cosa, che io personalmente sono favorevolissimo allo stadio di proprietà. Per esempio l'obiezione di Legambiente sul fatto che la proprietà sia della società Roma, io non ho nessuna obiezione, benissimo lo stadio. Abbiamo chiarito una cosa, che non stiamo parlando del progetto stadio, ma stiamo parlando del progetto Business Park, cioè l'85% delle cubature sono palazzi, commerciali, grattacieli, residenziali, uffici, eccetera, eccetera. Quindi di questo abbiamo parlato, dopodiché poi ditelo voi ascoltatori, chiamateci e noi siamo qua per sentire il vostro punto di vista. Che altro? Andiamo allora coi file della settimana, con sì, le signori. Voci di questa settimana, settimana che oggi avrà un punto fondamentale nella direzione del PD, non possiamo non parlarne, voci. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle hums, ready to race to you. Scegliamo qual è il campo di gioco e giochiamo con rispetto, in modo aperto, allegro, trasparente. Vinca chi ha le idee migliori e chi si mette in gioco e non vince, il giorno dopo dia una mano a chi ha vinto. Non scappi col pallone come è accaduto. Non lasci chi vince le primarie da solo. Già venuto nel corpo del nostro elettorato, del nostro popolo di riferimento, quindi credo che il nostro problema sia quello di dare un segnale di ricevuto, di provare a riprendersela questa gente qua, perché se le mettiamo le dita negli occhi non andiamo da nessuna parte. Questo è il tema che ho cercato di porre e invece abbiamo avuto una risposta molto secca. Avanti dritti così, facciamo un congresso cotto e mangiato e discutiamo il meno possibile. Speriamo davvero di non dover fare o dire cose drammatiche nelle prossime ore, e non è difficile evitare tutto questo, ma se dovesse essere necessario non solo non avremo paura, ma non entreremo in contraddizione con quello che stiamo dicendo oggi. Non costruiremo un soggetto avversario del PD, ma costruiremo un soggetto che non aspetterà altro che ricostituire questa comunità. Notizie arriveranno forse oggi. Oggi, anche se poi qualcuno già scrive, poi criticano la minoranza, poi si metteranno tutti dietro al capo, salvo poi ricriticarlo ancora una volta, eccetera, eccetera. Questo è quello che in effetti è già successo in passato. Alleggeriamo un attimo la settimana. L'alternativa è la scissione, va capito, insomma. Esatto, alleggeriamo. Settimana complicata anche per i napoletani, che hanno vissuto questa trasferta spagnola in maniera angosciante, con la polemica sulla cazzimma. Con un sacco di speranza dopo il primo gol, sì. E poi purtroppo. Cos'è la cazzimma? Ma la cazzimma è qualcosa di impalpabile, diciamo, perché è un misto di furbizia, intelligenza, velocità, scaltrezza, che non esclude anche, diciamo, dei sentimenti positivi. Un misto, è una cosa complessa, diciamo. Un po' di cattiveria pure, messa insieme. Quelle che è mancata al Napoli, vuoi dire? Purtroppo sì, è così. E cos'è la cazzimma? La cazzimma è questa, ma io lo dico. Questa è la cazzimma. E allora andiamo con Luigi che ci chiama da Roma. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei. Buongiorno. Vada. Buongiorno. Prego. Io per il personaggio della settimana avevo pensato che fossero il milione di pinguini che si stanno spostando da un posto all'altro per poter mangiare e per poter prolificare dopo la loro specie. I milioni di pinguini che si stanno spostando dove? In che zona in particolare? Che di che notizia? Credo che sia la Patagonia, no? Adesso non mi ricordo bene di preciso, però ho sentito questa e c'è anche una grande foto su un giornale. Sì, è vero, qualche giornale appare, non so esattamente dove, a cosa si riferisse, a quale zona, forse l'Argentina, come dice lei, lì ci sono i pinguini, ci sono anche in Sudafrica, ci sono altrove, la marcia dei pinguini. Non erano però loro il personaggio a cui stavamo pensando. Dalla nostra impreparatezza si evinceva. Ma stiamo parlando di quel documentario che è la marcia dei pinguini, quella dove... Vabbè, forse. Comunque non era il personaggio. Neanche l'ascoltatore in realtà aveva molto presente questa notizia. Giorgio da Roma, buongiorno. Pronto, buongiorno. Prego. Prego. Allora, secondo me il personaggio dovrebbe essere Trump, il quale sta parlando, straparlando tutti i giorni. Mm-hmm. E sicuramente un personaggio internazionale, sicuramente ci sono notizie su di lui. Sicuramente sta parlando. Sicuramente quasi ogni settimana viene fuori Trump come personaggio della settimana, e però non era lui. Giorgio. Buon proseguimento. Vabbè, dai, grazie lo stesso. Grazie. Possiamo dare un indizio a tutti gli ascoltatori, stiamo aspettando che Trump faccia qualcosa che sia un si può fare per farlo diventare il personaggio della settimana, più che così tanti sarebbe meglio non fare. Allora, andiamo con Letizia che chiama sempre da Roma. Buongiorno. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Letizia, benvenuta. Buongiorno a voi e grazie per aver affrontato questo tema che a noi romani, devo dire, e forse io credo anche a tutta Italia, interessa moltissimo. Diciamo, prima volevo fare una piccola correzione. Sì. Non mi ricordo chi di voi ha detto che è merito della giunta capitolina di aver in qualche modo portato avanti questo tema. No, al contrario, e prima, qualche anno fa, sarebbe semplicemente passato così, sì, come se niente fosse. E devo dire che adesso i romani sono molto più attenti di qualche sì. anno fa. Beh, l'ho detta io questa frase, può darsi che sia, come dire, non verificabile. Sono molto più attenti, e per esempio c'è il discorso di Facebook che ha aiutato moltissimo a confrontarsi fra di noi e a capirci le cose. No, quello che volevo dire io, Letizia, è che in passato progetti del genere sono passati, mi scusi il gioco di parole, senza troppe discussioni, senza troppe riflessioni, si pensava ma sì, costruiamo, tanto fa bene allo sviluppo, costruiamo. Poi ci siamo ritrovati con milioni di metri cubi inutilizzati, invenduti, vuoti, eccetera. Quindi questo è un punto. E dall'altra parte il programma politico, la sensibilità politica del Movimento 5 Stelle su questo è indiscutibile. Cioè loro da sempre portano avanti questa battaglia. Vedremo come andrà a finire a Roma. E soprattutto il fatto del Movimento 5 Stelle di renderlo un tema pubblico, di dire chiediamo ai cittadini se veramente interessa. Quindi finché si era su quel punto lì era molto interessante, ed è uno dei motivi per cui adesso, invece, che sembra, poi la sindaca Raggi ha smentito, però che era uscito uno e lo stadio si farà, poi lei ha detto no, ci sono ancora le verifiche da fare, è la questione che fa più strano in questo momento, perché invece loro hanno sicuramente una grandissima attenzione ai desideri del pubblico. Però Letizia voleva aggiungere qualcosa, concludere sul fatto, insomma, della sensibilità dei romani su questo? Nel frattempo si sono reso conto di che cosa sta succedendo a Roma, appunto milioni di metri cubi costruiti completamente vuoti, di cui alcuni poi si chiede il cambio di destinazione dell'ufficio abitazione, migliaia e migliaia di ettari del territorio dell'agro romano distrutto, e questo chiaramente è una visione che noi abbiamo completamente. Qual è l'obiezione che ci si fa? Credo sono due. Uno, perché mi è stata anche fatta, il territorio lì, quel pezzo di agro fondamentalmente è lasciato al degrado. Allora il discorso è questo: come fare uno stadio costringendo questi costruttori a migliorare e a riqualificare questa struttura e per esempio non permettendo di costruire lì nuovi metri cubi, ma permettendogli di utilizzare, di riaffrontare il discorso del restauro e del recupero di strutture che già sono fatiscenti. Che già ci sono, certo. Lo stadio, io vorrei ricordare a tutti che noi abbiamo un'opera incompiuta, che è lo stadio del nuovo di Calatrava, e quindi nessuno ci garantisce che questi costruttori poi completeranno lo stadio. Ma soprattutto io direi, perché per costruire uno stadio bisogna poi costruire anche 8 volte tanto di grattacieli e di centri commerciali? Se vogliamo costruire lo stadio, mi spiegate perché non possiamo costruire solo lo stadio, dobbiamo fare anche tutto il resto? Questo è il punto, perché se parliamo di stadio, allora per riqualificare la zona, perché se no metti uno stadio in mezzo a niente. Sappiamo benissimo che costruire non vuol dire evitare il degrado. Guarda quello che è successo, certo, in tante periferie dove ci sono tantissimi grattacieli e c'è tantissimo degrado. Non c'è equivalenza su questo. Ci fermiamo per il traffico, torniamo tra pochissimo. 800 24 00 24. Cari ascoltatori, aggiungiamo un indizio sul personaggio della settimana. Molto volentieri. Che abbiamo detto è internazionale, ma c'è a chi piace e a chi no. Si può fare. Cronache da un paese migliore. L'uomo che vendette il mondo, e questo è il titolo di questo celebre pezzo dei Nirvana, è perché insomma in questa settimana nella quale la Grecia ha detto no a Gucci, a una sfilata di moda all'Acropoli di Atene, che Gucci avrebbe pagato con milioni di euro suonanti che sarebbero stati spesi poi proprio per anche il recupero di una parte di quella di quell'area, si è riaperto così il dannoso dibattito tra tutela e valorizzazione dei beni culturali. Incontriamo un uomo che è un po' un simbolo in questa fase italiana di uno dei nostri monumenti più importanti in Italia e al sud. È il direttore di un luogo nel quale è arrivato con un bando, insieme ad altri 19 direttori, un bando voluto dal Ministero, un bando internazionale scelto per merito. Da quando guida la Reggia di Caserta, in un anno e mezzo, più 37% di visitatori, più 50% di incasso. Direte voi, i numeri non bastano, allora sentite l'intervista a Felicori, Mauro Felicori, direttore della Reggia di Caserta. Buongiorno. Buongiorno a lei e a voi. Buongiorno. Ben ritrovato Felicori, carissimo. Allora, noi siamo dei suoi grandi estimatori, lo diciamo subito, tifiamo per i monumenti italiani, tifiamo per lei, perché ci piacciono i numeri che sta realizzando, ma anche non solo i numeri, perché qui intanto lei cosa avrebbe fatto? Avrebbe risposto come ha risposto il Consiglio Archeologico Greco? A Gucci oppure no? Ma intanto io sono pronto ad offrire a Gucci una consolazione subito, cioè venite alla Reggia. Abbiamo un palazzo con 1200 stanze, sì. Abbiamo importanti saloni appena liberati dall'aeronautica e dalla scuola di amministrazione, abbiamo un teatro, abbiamo la sala del trono di Carlo, poi di Ferdinando. Quindi c'è sposo. Lei, Felicori, è un po' un accumulatore seriale di proposte, di iniziative, di idee, di cose di marketing, per cui non se ne lascia sfuggire una. Però prima facciamo un piccolo ripasso, per chi è stato distratto in questi ultimi mesi, su quello che è successo da quando lei è arrivata alla Reggia quasi un anno e mezzo fa adesso. Lei si dice, ce lo confermi, lei dà l'esempio intanto lavorando dalle 8 di mattina alle 8 di sera, praticamente tutti i giorni. Sì, anche 8:30 di mattina, però anche 8:30 di sera, ecco. Ma che fa? Sta davanti al computer a giocare ai giochini, ai videogiochi? Beh, anche adesso sono al lavoro. No. Diciamo, è una sfida così bella, sì. L'idea del rilancio della Reggia, usare la Reggia per trainare anche lo sviluppo di un territorio anche difficile, è una sfida bella, merita il massimo impegno. Quindi lei si appassiona e, certo, ma certo. E sta lì dalla mattina alla sera. Senta, quando lei è arrivato lì alla Reggia, c'erano, io mi sono segnato un po' di punti perché poi non si dimentica, ma cose incredibili, tipo venditori abusivi, custodi che giravano senza la divisa, gente che girava con auto private nel parco della Reggia di Caserta, persone che vivevano, abitavano dentro la Reggia di Caserta senza tra l'altro essere eredi, credo, dei Borboni. Ma guardi, c'erano venditori abusivi fin dentro il museo, e con l'aiuto delle forze dell'ordine, l'impegno dei nostri custodi non ci sono più, e anzi non opprimono i turisti neanche all'entrata. C'erano eredi di dipendenti di altri tempi che continuavano a vivere negli appartamenti, ma li abbiamo, sia pure gli ultimi con l'aiuto della forza pubblica, li abbiamo allontanati, diciamo. Spero tutti si sia trovata una soluzione abitativa per queste persone che eventualmente magari non avevano alternativa, però capite bene che non è che uno può vivere così nella Reggia di Caserta. No, è stata trovata, non c'è nessuno in mezzo alla strada. E purtroppo ancora adesso i custodi nostri non hanno la divisa, ma abbiamo già lo stanziamento in bilancio per comprarla. E purtroppo i nostri custodi del parco usano ancora l'auto propria, ma abbiamo un contratto in vista per le auto elettriche con il logo della Reggia. Quindi, diciamo, dal punto di vista della manutenzione ordinaria c'è ancora tanto da fare. Ci state lavorando, work in progress, per una volta uso io un'espressione inglese. Senta, ma è vero che la Reggia di Caserta è la residenza reale più grande al mondo? Ma guardi, non l'ho mai misurata, certamente diciamo, è un oggetto con 1200 stanze. C'è scritto su Wikipedia, non è so. Lungo, sì. Il parco è lungo 3 chilometri, sono oltre 100 ettari di territorio, l'acquedotto che porta l'acqua alle nostre fontane è lungo 40 chilometri, di fianco alla Reggia, sempre nel sito UNESCO, c'è il setificio di San Leucio, che è un patrimonio straordinario. Insomma, stiamo parlando comunque di uno dei monumenti più grandi del mondo, certamente, e il parco forse, per esempio, il parco è molto più bello, più interessante di quello di Versailles. Il parco è una vera invenzione di architettonica, si inserisce nella natura. Se uno riesce a schivare le auto, appunto, private che ci girano dentro. Sì, sì. Vabbè. Senta, dicevamo però, lei ha fatto tante proposte in questi mesi, me ne ricordo alcune. Ha fatto un accordo, credo, con un outlet, anche lì scandalizzando qualcuno, ma come la Reggia di Caserta che fa un accordo con un'attività commerciale come un'altra. E poi accordi con altre realtà museali, mostre. Ha proposto a Federica Pellegrini di nuotare la vasca, c'è riuscito? No, perché l'avremmo saputo, credo. Ma no, c'è stata una polemica, ma comunque so dai genitori con cui ho parlato che per Federica si è fatta una bella risata, ma lo faremo prima o poi. Comunque guardi che è in preparazione una gara di canottaggio Oxford-Cambridge più le canoe di napoletane, che peraltro Oxford-Cambridge è già stata fatta alcuni anni fa, proprio l'altra sera. Dove, porto, scusi, di Napoli, non ho capito. Cos'è che avete? Sì, il porto di Napoli fa un'attività verso i ragazzini del rione Sanità, di educazione alla vela, e mi hanno chiesto di poter fare una gara qui nella peschiera. Ma guardi, d'altra parte. No, non abbiamo capito, scusi, ci spieghi un attimo. Vuol fare una gara di canottaggio dove? Dei bambini nella peschiera del parco, d'altra parte. Ah, ma è già in programma? Beh, ne stiamo già parlando. Guardi che d'altra parte la peschiera fu fatta, il Ferdinando IV bambino, sì, diventa re bambino, e fu fatta facevano le battaglie navali con i marinai veri. Noi abbiamo un villaggio dentro, detto dei Liparoti, perché fecero arrivare i marinai delle Lipari per fare le battaglie navali. Sì. No, no, ma abbiamo, scusi, una Castelluccia e Ferdinando faceva le battaglie navali. Noi siamo degli appassionati della Reggia e assolutamente della sua direzione, però non è che siamo degli studiosi, quindi che è domenica mattina, se ci fa un ripasso su esattamente. Perché lei, Filicori, bisogna starle un po' addosso, perché lei una ne fa e cento ne pensa. Questo no, sì. Ma io le dico questo, che guardi, parlando di tutela e valorizzazione, non sono sullo stesso piano. Io sono un uomo di marketing, ma mentre la tutela, quindi si figuri se sottovaluto la valorizzazione, ma la tutela è un obbligo costituzionale, non c'è dialettica tra tutela e valorizzazione, la tutela è un obbligo, noi dobbiamo consegnare ai nostri figli i monumenti meglio di come li abbiamo trovati, Sono convinto però che se i monumenti li promuoviamo, li facciamo vivere nel modo giusto, questi monumenti, noi facciamo anche una tutela migliore se li promuoviamo. La certo. tutela non è lasciare che la polvere si depositi sui beni culturali, la tutela è far sì che i musei siano luoghi vivi. Certo, che siano visitati, che tante persone li conoscono, e quindi la tutela passa anche attraverso quello. Male, non solo, ma anche... Se Pellegrini certo. venisse a farsi un tuffo da noi sarei ben felice. Assolutamente, ma anche noi, anche noi. Insomma, poi gli incassi con la nuova riforma, gli incassi restano in parte anche, a, per esempio, alla Reggio, quindi più incassate, più riuscite a investire. Il 80% resta a noi, nel 2016 comunque abbiamo incassato 1,5 milioni di euro in più di quello che avevamo previsto a bilancio, quindi faremo più manutenzione, faremo meglio il nostro lavoro. Intanto leggo che la Reggia di Caserta rieduca i detenuti e che riapre il teatro di corte. Sì, guardi, ci sono adesso delle leggi che permettono ai detenuti, prima di tornare liberi, di avere la semilibertà legata al lavoro. Allora una decina di detenuti, con l'aiuto degli amici della Reggia che hanno dato un finanziamento per i costi vivi, per 6 mesi hanno fatto lavori nel parco, suscitando anche la passione di tanti cittadini intorno che vedevano questi ragazzi lavorare. C'era il ristorante che gli portava la ruola di lasagne, il bar che gli portava il caffè. È stata un'esperienza buona, i magistrati di sorveglianza hanno dato un giudizio positivo. È venuto il sottosegretario che ha immaginato che giustizia e beni culturali possono fare un protocollo perché in tutta Italia i musei diventino un luogo in cui i detenuti hanno un'occasione di riabilitazione. È una di quelle esperienze in cui guadagniamo in due. Noi abbiamo avuto il parco messo in ordine, sistemato, e i ragazzi hanno avuto un'occasione di riabilitazione. Certo, bello. È un piano perfetto, direi. Dallo stupore il teatro della... è una piccola sì. vergogna della Reggia, ecco. Il teatro di corte è un posto meraviglioso, una delle acustiche migliori del mondo, questo sicuro. Quanti posti ha? Ha 300 posti. Pensa, 300 posti. E non è inutilizzato da quando? Non solo agli spettacoli, perché sì. ancora adesso le norme di sicurezza non ce lo permettono, ma era chiuso anche ai visitatori. Adesso con l'aiuto dei volontari del touring lo apriamo il sabato e la domenica, ma io non sarò contento finché non l'avrò riaperto almeno con 1 euro tutti i giorni. Intanto quindi si può inizio... visitare, però lei dice voglio arrivare al giorno in cui ci faremo davvero anche un concerto. Ma certo, sì. Adesso intanto abbiamo cominciato a usarlo per le registrazioni. Abbiamo già domande di musicisti che vogliono registrare lì perché è un'acustica perfetta. Che meraviglia, Felicori. Noi siamo al vostro fianco, anche se in realtà siamo molto lontani fisicamente dalla Reggia di Caserta. In complimenti, grazie per essere stato con noi. Grazie avanti mille. Così, avanti tutta. Mi raccomando, se avete un sì. contatto con Gucci, dite che un luogo di consolazione ce l'abbiamo. Giusto, ma secondo me è più facile che ce l'abbia lei il contatto con Gucci. E in realtà la cosa che ci chiediamo sì. è: ma perché la Grecia ha detto di no? E ha fatto così male a dire di no l'Acropoli? Secondo me hanno fatto male, sì. È un... L'orgoglio è un bel sentimento, ma va usato con moderazione, come tutte le cose. Ecco. E alla Reggia dove la farebbe la sfilata? In che punto della Reggia la farebbe una sfilata di moda di Gucci, per esempio? Oh, abbiamo una fontana lunga 3 chilometri. Quindi spazio ce n'è. Una sfilata, mettiamo così, estiva, a maggio potrebbe essere all'aperto. Beh, 3 chilometri di sfilata ci muoiono le modelle, già mangiano poco, se le facciamo poi camminare 3 chilometri muoiono di non sicuro. Arrivano in fondo, giusto. Abbiamo una lunga tradizione che vorremmo ripristinare appena avremo i soldi di apertura serale, estiva del parco, quindi è una delle mie ambizioni, certo che aprire con una sfilata di Gucci sarebbe piacere. Bene, vedremo. Noi la buttiamo lì nell'etere. Esatto, li metteremo in contatto. Okay, grazie Felicori. Buona domenica a tutti. Grazie, e buona poi, domenica. Insomma, torneremo da Felicori perché, ripeto, bisogna un po' tenerlo sotto controllo. Perché una ne dice e altre 10 ne dice. Una e poi possiamo dire che è il direttore perfetto perché lavora anche il sabato e la domenica. Noi andiamo in onda il sabato e la domenica. Qualunque ora lo chiamiamo, lo becchiamo a lavorare. Quindi è perfetto. Il nostro direttore, Anna Maria da Como, benvenuta. Poi andiamo buongiorno, in pausa. Vai, Anna Maria. Buongiorno a tutti. Buongiorno, prego. Allora, io avevo pensato a Netanyahu. Sì, personaggio della settimana. Ecco, esatto. Pensavo proprio a lui perché è andato da Trump la settimana scorsa, cioè in settimana. Beh, personaggio internazionale, c'è a chi piace, a chi non piace, perché sappiamo che non mi piace, è tutto corretto, ma non era il personaggio che abbiamo scelto. Grazie Anna Maria. Comunque, grazie a lei della chiamata. Vedi come mi sono attenti però gli ascoltatori anche sulle notizie estere. Poi dice che gli esteri non interessano. Chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Interessano. Molto. Giuseppe da Bologna. Buongiorno. Buongiorno. Vai. Come va? Tutto bene. Bene, sì. Giuseppe, tu come stai? È la mia trasmissione preferita. Vi ringrazio perché prima di andare a lavorare mi ascolto di tutto, diciamo, dalla musica ai vostri commenti. Poi voi due siete veramente i miei preferiti. Siete, ma vai a lavorare in gamba. Grazie mille, ma sentiamo del fiatone. Sì, perché ero a letto e non ho ancora acceso il riscaldamento. E sono un po' anche emozionato. Sta balbettando dal freddo. Ma vai a lavorare? Che lavoro fai di domenica? Se posso lavoro al bar Sant'Orso di Bologna come agente di ristorazione. Al bar Sant'Orso, al bar dell'ospedale? No. Sì, al bar, sì, il bar grande dell'ospedale. Certo, il celebre ospedale Sant'Orso. Io ci ho vissuto a Bologna. Cassa, bar, tutto, ristorazione, diciamo. E lavori sempre il weekend? Sì, oggi addirittura oggi sono da solo a lavorare perché facciamo i turni, diciamo. Quindi dobbiamo fare rapidi. Dai, vai, sennò poi si bloccano i cappuccini. Me, non apro il bar. Vai. Per me è Walter Veltroni, perché lui è tifoso dell'Inter e ha scritto ultimamente un libro e si vorrebbe candidare con la Lega Calcio. Però un momento, Veltroni tifoso dell'Inter, non vorrei che il freddo mattutino ti avesse... mi risulta che sia tifoso della Juventus, Walter Veltroni. Ma lo è stato anche dell'Inter. Va bene, comunque a parte questo. Poi è simpatico a alcune fazioni, altre no, diciamo, perché lui è un politico, certo. Come tanti altri politici. Ha già credo ritirato, aveva detto vado a fare il presidente della Lega Calcio, ma in realtà non ci sono le condizioni. Non so se fossero delle condizioni di tifo o più delle condizioni di stipendio, questo non lo so onestamente. La notizia c'è, siamo contenti di averla ricordata, ma non era il personaggio che abbiamo scelto. Quindi, ma grazie Giuseppe, mille di tutte le tue parole. Grazie di averci chiamato. Buona domenica, buoni cappuccini, mi raccomando, a tutti e lì a Bologna. E niente, noi ci fermiamo invece. Siamo su questi due indizi al momento. Un personaggio internazionale. E c'è chi piace e a chi no. Benvenuto nella tua auto. Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali. Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Tocca a me, Carlo, tocca a me. Tocca a te. L'indizio, numero 3. Allora, diamo il terzo indizio, perché stamattina siete un po' così, un po' pigri, un po' assonnati ancora. Terzo indizio per il personaggio della settimana: ha i piedi ben piantati per terra. Quindi, oltre a essere internazionale e essere un personaggio che a qualcuno piace, a qualcuno non piace, ha questi piedi ben piantati per terra. Insomma, più di così, no? Direi che ci siamo. Bello, dai, bello. Attendiamo telefonate all'800 24 00 24. Settimana complicata anche per chi ha usato il taxi o tassi. Che c'è una nuova fase della protesta dei tassisti contro Uber, la mancata legislazione contro Uber. Chissà poi se arriverà una legislazione chiara nazionale contro Uber. Dubito che si possa legiferare contro una cosa, però cioè, per regolamentare qualcosa forse sì. Sentiamo i tassisti, va. Secondo te, uno che ha una licenza di, che ne so, tecnica, può venire a vendere d'ambulante, può venire a vendere i panini a Piazza di Spagna? No. E perché il tassinato tecnica ti può venire a caricare invece a Piazza di Spagna? Senza regole, senza rispondere neanche a te. Senza rispondere neanche a dei canoni di sicurezza, perché il tassinato romano viene preso, c'ha un piede qui da quando è nato a quando muore, non può sgarare, ogni volta che sgara c'ha le commissioni, tutte, c'è di tutto. foggy day in London town. I had me low, I had me down. I viewed the morning with such alarm. British Museum had lost its charm. Senti come scorre liscia questa Foggy Day di Michael Bublé, eh? In London Town, una giornata nebbiosa. Già, però nebbia di smog forse, perché lo smog è un problema anche a Londra. E c'è una proposta del sindaco di Londra, una proposta abbastanza, come dire, forte, netta e precisa, netta e precisa, che riguarda le auto diesel. E allora noi abbiamo convocato per parlarne una donna che vive in Italia, scusate, che è italiana e vive a Londra, ha collaborato col sindaco Sadiq Khan, può dirci tutto sulle ultime novità di Londra, che è vero che si sta staccando dall'Europa, ma resta per noi un faro di civiltà, possiamo dirlo. È con noi Ivana Bartoletti, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. È stata candidata alla London Assembly, Consiglio Comunale di Londra, per il Partito Laburista, cioè per il partito di Khan, col quale appunto mantiene, credo, anche una qualche collaborazione, così? Sì, sì, ho dunque lavorato con il sindaco attuale per tanti anni, da quando ero candidata alle europee, okay. E poi abbiamo costruito insieme la campagna alle europee. Quindi è la persona giusta per farci un po' addentrarci in questa notizia. La notizia per ora è un annuncio. Si parla di un piano per rottamare le auto diesel che consentirebbe fino a 3.500 sterline a chi rottama l'auto diesel. Insomma, una cifra che dico non basta, ma è già interessante per comprarsi l'auto nuova. Insomma, 3.500 sterline non sono poche. Per abbattere le emissioni. Diciamo Londra non so, è famosa anche non solo per la nebbia, sì, ma anche per il livello di inquinamento che è altissimo. Solo nei primi 4 giorni del 2017 sono state superate di belli massimi per tutto l'anno. Ah, guarda, chi lo dice? Noi qua a Milano stiamo inguaiati, molto inguaiati. Ecco, infatti. E si calcola che ci siano 10.000 morti all'anno condizioni che sono o peggiorate o causate dall'inquinamento atmosferico, e questo è soprattutto per i bambini. Il personale medico riferisce di polmoni che sono sottosviluppati per i bambini. Ma come mai questa tensione in particolare sulle auto diesel? Perché in effetti anche qua si sta discutendo rispetto al passato di limitare molto di più il traffico, no? A certi diesel. Ci sono varie a Londra per entrare nel centro c'è una tassa che si chiama congestion charge, che è una tassa di 12 sterline che bisogna pagare per entrare nel centro. La proposta del sindaco è quella di far pagare un'ulteriore tassa di 10 sterline a tutte le macchine diesel che appunto entrano in qualunque diesel, anche un diesel di ultima generazione. Sì, e il problema è che sono stati individuati 10.000 veicoli, sì, che sono attualmente entrano nel centro della città e che sono rischiosi. Il sindaco ha preparato un'app, che l'ufficio del sindaco, un'app che sarà disponibile su internet, dove uno potrà digitare le caratteristiche del proprio veicolo e verrà detto se dovrà pagare la tassa oppure no. Il problema vero però è che non è che chiaramente la città di Londra può fare tutto da sola, c'è bisogno di un'azione forte di governo su questo, perché c'è bisogno di fondi per dire bisogna lavorare su questo e fare in modo che il problema si risolva. Poi il sindaco sta cercando e i comuni a livello locale, quindi i vari boroughs a livello locale, stanno cercando di aumentare le zone a basso emission per le macchine e soprattutto di aumentare le zone che vengono, le zone pedonali, anche la famosa Oxford Street dove tutti i turisti vanno a fare shopping, sì, sarà, spero, nei prossimi mesi completamente pedonale. Ma cosa sono le zone a bassa emissione? Cioè delle zone in cui si è vietato emettere? Sì, delle zone che sono proprio ultra low emission, sì, sono zone dove appunto è vietato emettere e bisogna dove il controllo delle emissioni è più stretto rispetto alle altre. Sono zone particolarmente centrali oppure zone. Ma ci sono limiti di velocità? Come si fa a controllare queste emissioni? La proposta adesso è, la stanno studiando a livello locale, però ci saranno limiti di ingresso e poi ci sarà un controllo fatto a livello locale. Diciamo che adesso si è aperta una consultazione che durerà da qui fino all'estate e poi da ottobre tutte queste nuove misure entreranno in un po'. Devo dire che insomma, questa è un po' la frontiera adesso dell'amministrazione delle città, perché lo smog, soprattutto nelle città, io credo, europee, in moltissime grandi città, ma forse anche nelle piccole città, è un problema che va risolto, va affrontato, ci sono dati allarmanti, è una cosa che sta nelle nostre possibilità, quello di intervenire in qualche modo. Noi siamo messi così, diamo la colpa alle auto per un terzo circa, questi sono gli studi almeno che riguardano l'Italia, un terzo i riscaldamenti, un terzo anche l'industria di produzione, che magari sta anche fuori delle città, e si sta cercando di trovare delle soluzioni, però attualmente in Italia siamo, credo, a livello di palliativi, se non sbaglio, e invece insomma da Londra arriva il messaggio di intervenire pesantemente, vedremo. Beh, sì, no, io quello che mi chiedevo è, da un lato pesantemente, dall'altro è se si stanno facendo anche altre cose, perché onestamente limitare 10.000 automobili diesel che inquinano molto non mi sembra di aggredire veramente il problema dello smog di Londra. Ma è vero, cioè, è perfettamente vero. Diciamo che questa è una cosa che si può fare, che ha su cui ha potere l'amministrazione locale. Certo. Ovviamente sulle questioni della limitazione del traffico, sulla sostituzione dei veicoli, sul fatto di poter di un'azione di più ampio respiro, lì si tratta di un'azione forte di governo. Ora, citavate prima Uber. Ovviamente la questione di Uber è anche legata all'inquinamento atmosferico, perché ci sono tante macchine di Uber che non rispettano gli standard, e non solo Uber ma anche altri taxi di più tradizionali, quelli neri tradizionali londinesi. Ma non solo questo, ovviamente c'è una questione di energia, c'è una questione di investimento nell'energia verde, una decisione da prendere su qual è il futuro del nucleare, insomma. Certo. ci sono tante decisioni che vanno prese e su cui ovviamente da sola la città di Londra non può fare. Questo è un tassello in più preso dall'iniziativa del sindaco di Londra e dalle amministrazioni comunali, però ci vuole una forte azione, una forte determinazione dal punto di vista del governo. Certo, le volevo fare una domanda che c'entra poco con questo, ma siccome lei è a Londra mi incuriosiva come si sta vivendo la Brexit in una città come Londra, che in realtà invece è inclusiva e per tutti noi è un approdo di inclusività, e invece poi una Theresa May che sta andando avanti sulla Brexit e presto sarà definitiva questa Brexit? Sì, diciamo, è una bella domanda, non bene, non si vive bene, perché Londra, come dicevate, è una città aperta, una città multiculturale, ma Londra non è la città che ha votato per uscire dall'Europa, è stato, diciamo, il sud-est e parte del nord. Il clima non è un clima dei migliori, non solo perché le conseguenze si stanno cominciando a sentire, i prezzi che aumentano, perché i prodotti che vengono dal continente costano di più, ma anche perché si sta creando un clima di divisione e quasi di razzismo che aumenta nelle città. Quindi c'è da fare un'opera grossa di riunire di nuovo questo paese che ha votato solamente per il 2% in più. Certo, qui c'è stata una grande divisione con una lieve maggioranza. Una grande divisione. E quindi la strada al momento sembra segnata, ma il percorso è ancora lungo. Chissà se non ci riserverà, non dico delle sorprese, ma insomma delle cose da scoprire, da conoscere. Grazie Ivana Bartoletti. Grazie. Intanto per essere stata con noi da Londra. 800 24 00 24, se questo si può fare, del sindaco di Londra che annuncia la rottamazione delle auto diesel, vi ha convinto oppure no? Chiamateci, noi siamo qua. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E allora ci ha chiamato Nadia da Biella. Buongiorno Nadia, benvenuta. Buongiorno a voi, buona domenica. Buongiorno. Prego. Secondo me sono le palme che hanno piantato il Piazza Duomo. Mm-hmm. Perché? Parliamo perché non piacciono a tutti, forse a troppo pochi, sono ben radicate per terra. Questo è un po' quello che mi ha portato a questa conclusione. Beh, volevamo, Nadia, volevamo aiutarvi definitivamente con i piedi piantati per terra e direi che ce l'abbiamo fatta. Eh sì, volevamo anche riepilogare un po' questa notizia di questa settimana. Abbiamo parlato di Roma, adesso parliamo un po' anche di Milano. Forse qualche distratto non ha seguito questa vicenda. Si stanno piantando delle palme in Piazza Duomo Milano, insieme tra l'altro a delle altre piante. Ci sono le canne cinesi, i bananeti e tutta una serie di piante rosa che staranno sotto, eccetera. Non sono piaciute a tutti, anzi molti hanno criticato, hanno detto ma come, che c'entrano le palme, che sono una pianta esotica a Piazza Duomo, un luogo sacro. Palma a Milano ce n'è un po' ovunque. Dire appunto la vera polemica poi è nata con la questione di Salvini che ha detto adesso ci sono le palme così si trovano meglio gli immigrati, insomma una follia. Infatti qualcuno ha anche risposto ma vorrei ricordare che a Roma c'è anche una fermata che si chiama Piramide della metropolitana, insomma. Occasione buona per fare polemica politica. Comunque Nadia, vince il libro di oggi che non abbiamo detto ancora cos'è. Lo diremo entro chiusura di puntata. Complimenti, brava Nadia. Adesso vi faccio sentire un po' di vox populi di milanesi, un po' incuriositi, un po' straniati, un po' dire ma perché, ma che problema c'è con le palme? Altri invece no, le palme no, sentite. Queste palme arrivano dai nostri vivai in Brianza. Perché molti dicono ma qui muoiono queste palme. Non è assolutamente vero, perché questa pianta, questa varietà di palma qua ormai è quasi autoctona in Lombardia perché ce ne sono dappertutto. Lei metterebbe, che so, un igloo in Florida? Così bella. Mi sentite un po' più a casa? Sì, un po' c'è bella atmosfera così. Ma io vorrei sapere a chi lo dice i taxisti che si devono spostare per parcheggiare i cammelli. Io ho la casa a Sanremo, non vedo come possono resistere le palme qua. Si dice così, guardi, ma va ci appaierà. Allora, insomma, le critiche si va da sono brutte. E qui è soggettivo, a me per esempio piacciono, le palme piacciono in assoluto, a dire non sono adatte a Piazza Duomo, possibile, c'è un contrasto sicuramente perché è una pianta mediterranea in una piazza con un duomo gotico, però uno può giocare anche sul contrasto, oppure avrei preferito un olmo, no? Perché no? Va bene, è tutto ammesso. E poi si arriva alla critica. In realtà un olmo è un macello perché le radici vanno sotto pazzesche. E quindi non si possono mettere. Tu e ricordiamo olmo, esatto. Non dovevo dirlo. E ricordiamo però, comunque che sono messe da dei privati queste piante. Non è che sia un progetto del comune. È come si usa a Milano, la aiola viene gestita da un privato che poi ci mette il cartellino dicendo questo verde è curato da. Quello che fa proprio cadere le braccia è questa cosa di dire l'avete messa per far piacere agli extracomunitari. Perché questa veramente non si può sentire, ragazzi. Boiata. Le palme ci sono state sempre in Italia da tutte le parti, piacciono o non piacciono, ma non c'entrano tu. A noi ci interessa soprattutto sapere se queste palme però sopravviveranno al clima rigido, in effetti che non lo so, di Piazza Duomo. Allora abbiamo convocato un agronomo, arboricoltore della scuola agraria del Parco di Monza, Andrea Pellegatta. Buongiorno. Eccomi, buongiorno. Buongiorno. E tra l'altro abbiamo scoperto che sono palme brianzole, cioè delle vostre. Sono palme. È vero, sono palme brianzole nel senso che sono presenti, sono state importate in Europa da un centinaio di anni, dalla metà dell'Ottocento, e in Italia vengono coltivate in alcuni. Cioè, ma sono le stesse palme che hanno cent'anni o sono altre che sono riprodotte? Non sono, diciamo che sono state introdotte come specie, è stata introdotta in Europa a metà dell'Ottocento e a Milano sono presenti da un centinaio d'anni circa. Da cento anni ci sono le palme a Milano? Assolutamente non sì, ovviamente non tutte le specie di palma, ma quella che viene utilizzata, che si sta utilizzando in Piazza Duomo è una delle palme più resistenti al freddo. Questo è il motivo per cui viene utilizzata. Quindi non avrà problemi, a parte che a Milano centro ormai fa un caldo d'inverno, ci sono 18 gradi e quindi figuriamoci. Io credo proprio di no. Poi penso si debba anche aspettare, come è stato anche detto, il termine dei lavori per vedere l'aiuola finita. Però è vero che è un'aiuola esotica, no? Perché lei da arboricoltore, cosa avrebbe, che alberi avrebbe messo in Piazza Duomo? Avrebbe puntato. Sì. Probabilmente avrei scelto delle specie diverse. Se uno dei temi, una delle critiche più forti che viene fatto è legata al fatto che non sono delle piante autoctone. Credo che in questo caso il progettista abbia voluto creare, progettare, poi creare qualcosa anche di provocatorio, di volutamente. Però scusi, questa delle piante autoctone, che ci stia anche riuscendo. Sì, ma le piante autoctone adesso, che chiedersi oggi cos'è una pianta autoctona non è un po' strano? È cioè difficile. Il pomodoro, la patata, esatto, sono piante autoctone, esatto. No. Ma non solo, anche i platani, i cedri che sono anche quelli presenti da centinaia di anni all'interno dei parchi storici anche di Milano. Arrivano comunque da altri paesi. C'è stato un momento in cui sono arrivate e qualcuno si sarà lamentato dicendo: ah, perché mettiamo i cedri a Milano? E poi dopo si adattano e i cedri ci sono e ci facciamo anche le cedrate. Perché ci avete portato queste sfere rosse dal sapore incredibile? Erano i pomodori e poi dopo ci abbiamo fatto la pizza. Quindi questo io però che... se posso vorrei anche dare una chiave di lettura diversa. Ce la dia. Se si rimane sull'aspetto così estetico ornamentale, giusto, avete mandato in onda le opinioni dei cittadini, ci si divide sul fatto che sia l'aiuola sia bella oppure no. Invece? Io penso che quella è una realizzazione appunto temporanea, durerà 3 anni, il comune prende anche dei soldi dallo sponsor, però è importante, io trovo straordinario il fatto che si stia, l'opinione pubblica, i media, i politici, stiano finalmente parlando del verde. Del verde in città, bravo, del verde pubblico. Giusto. Che se ne parla, è importantissimo. Grazie, dottor Pellegatta. E questa è la giusta conclusione di questa puntata di oggi. Molto giusto. Non c'è che salutarsi. C'è che salutarsi. Un grazie ad Andrea Piana, Claudia Schettone, Lorenzo Nespoli, autori, redattori e quant'altro di questo programma. Peter Bescapè oggi in regia. Tutto anche da parte nostra. Ciao da Alessio Maurizio. E ciao da Carlo Gabardini. E a chi ci segue in podcast.